Siete tutti convocati. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Che prova a metterla in mezzo, il colpo di testa. Lewandowski, un gol fantastico, un'azione fantastica. Centrale Zaza, movimento di Zaza, su Koulibaly, poi il sinistro, Simone Zaza. Quindi Mertens. Occhio al rimpallo che favorisce Morata, che va col mancino! Posizione regolare, Vardy tutto solo, Vardy! Jamie Vardy! Müller! Thomas Müller! Giorgio De Luca, il nostro autore, ti bacchetto sulle dita. Non c'era una musica un po' meno moscia per disegnare... È lì. Ho capito, la canzone ufficiale, ma è per farmi vedere il firmamento delle stelle dell'Europeo. Giovanni Capuano. Ma no, è bello l'inno, dai. Non mi ricordo chi lo canta, lo sa lui, poi ce lo facciamo dire. Però. Moscio. Pardo, ciao. Come va? Bene, avrei voluto qualcosa di più rock, no, di più... De Luca non sbaglia una clip da 78. De Luca non sbaglia una clip quando andava alle elementari, praticamente. Quando andava alle elementari a Napoli, nell'istituto svizzero napoletano di Napoli. Ci siamo, comincia il gran ballo, non so se in maschera o no, degli europei, e allora è il giorno, molto banalmente, dei pronostici. Della squadra rivelazione, chi sarà secondo voi e di quali saranno le stelle più brillanti nel firmamento di Francia. Pierluigi Pardo, Giovanni Capuano, tutti i convocati all'800240024. Comincio da te, Pardo. Ma sarà innanzitutto, mi sembra, anche sentendo effetto giorno e tutto il resto, un discreto casino, perché veramente Hollande è accerchiato fra rischi terrorismo, scioperi, manifestazioni, adesso pure gli hooligans, questo, ma è un inizio agitato, ma da questo punto di vista devo dire la verità, siamo abbastanza abituati ormai, perché sì, non è una grandissima novità, la paura che c'era prima del mondiale in Brasile era molto simile a quella che c'è oggi, al netto dell'ISIS, chiaramente una minaccia in più. Ma detto questo, tornando dal punto di vista tecnico, penso che la Francia sia la grande favorita, perché a parità, secondo me, di forza, il fattore campo può rappresentare qualcosa di importante, anche se poi la storia ci dice che è proprio dall'84 dagli europei francesi che una squadra padrona di casa europeo. Sì, è vero. E credo però che insomma sia la favorita, assieme ovviamente alla Germania e alla Spagna. Molto accreditato il Belgio, ma io penso che sia un gradino dietro, se non altro come esperienza. Giovanni Capuano. Ma guarda, io metto il mio euro sulla Germania. Perché sì, è vero che la Francia ha tutte quelle virtù, compresa la fortuna di giocare in casa, che ha detto Pierre, però la Germania è un passo sopra ancora. È ancora fondamentalmente la squadra che 2 anni fa ha vinto il mondiale e lo ha fatto quasi all'inizio di un ciclo, perché quella Germania lì non ha vinto alla fine di un ciclo. Io ho l'impressione che questa Germania, quella Germania e questa Germania possano un po' assomigliare alla Spagna che ha vinto per 2 o 3 grandi edizioni, manifestazioni consecutive. Sì. Guarda, io voglio fare il figo e dico Inghilterra. L'Inghilterra di Vardy. Che Dio ti benedica. Io ho passione per l'Inghilterra, la mia seconda squadra l'Inghilterra, dopo l'Italia. L'Inghilterra di Vardy, l'Inghilterra dell'Ester, l'Inghilterra del reietto Roy Hodgson, l'Inghilterra che non vince mai niente, l'Inghilterra che comunque è il più grande affare per tutti i bookmakers e i venditori di biglietti del mondo. L'Inghilterra che si è avvicinata a questo europeo mica male. No, visto, benissimo. Appunto, viste le amichevoli. Quindi andiamo con l'Inghilterra. Anche visto il girone, però credo che sia dietro. spero di sbagliarmi, ovviamente siamo l'Italia, ci mancherebbe altro. Anche il Portogallo mi è molto simpatico da sempre, storicamente, sì, questo simpatico, popolo sì. al quale ho visto perdere un europeo in casa contro la Grecia col gol di Karisteas e accettarlo quasi come così, come una roba normale, una un giro del destino assolutamente accettabile. Però insomma credo che anche il Portogallo sia dietro, poi ci siamo anche noi sono le 14:14 siamo in onda da mezz'ora siamo in onda da esce l'Italia sette minuti. No, io leggo sul sito della Gazzetta che oggi è uscita, ne abbiamo parlato ieri in questa edizione tricolore, però leggo sul sito che secondo gli europronostici digitali l'Italia uscirà già agli ottavi. Mica male. Fermiamoci un attimo per il traffico, poi torniamo. 800 24 00 24. Voglio sapere anche secondo voi quale sarà la squadra rivelazione e quale sarà magari il giocatore che non ti aspetti e che potrebbe diventare la stella nel cielo di Francia. Tutti convocati. Convocati. Non c'era bisogno di scomodare Jimi Hendrix, però mi piace questo inno rock, inno di Mameli rock. Faremo un lungo giro d'Europa per chiedervi quali sono i vostri pronostici, quali sono le favorite, ma anche le squadre rivelazione e i giocatori rivelazione. Io intanto leggo cose interessanti da parte dei nostri convocati, soprattutto via WhatsApp 348 349 238 6666. C'è chi scrive l'Islanda, diversi votano la Croazia, c'è chi scrive che potrebbe essere l'anno dell'Albania di De Biasi. Ovviamente Pierluigi Pardo collegato con noi, Giovanni Capuano qui con me, Dario Ricci, nostro inviato in Francia. Ciao Dario! Ciao a tutti, grazie della convocazione, un saluto da Montpellier. Grazie della convocazione, sei a casa. Qui a fianco a me c'è Massimiliano Nerozzi, l'inviato della Stampa, per gli amici e per i colleghi il Nero. Beh, Nero, partecipa subito al gioco. Squadre favorite, il tuo podio e squadra sorpresa. Favorita Germania, sorpresa Inghilterra e Italia, giocatore Draxler, se non si rompe, se non si è già rotto. Oh, idee chiare, diciamo, mi associo sul pronostico sulla Germania. Per me la squadra sorpresa potrebbe essere la Croazia, il giocatore protagonista, beh, perché non Morata, sarebbe anche ora, no? Beh, poi dipende cosa si intende per protagonista, scusa, per rivelazione. Se rivelazione sì, per vincere potrebbe essere il Portogallo. Attenzione anche a come è costruito il tabellone della seconda fase, perché ad esempio Germania e Francia, se fanno il loro dovere, si incontrano ben prima della finale, sì, e magari il Portogallo potrebbe trovarsi anche sempre l'Italia, se fa il suo dovere. Sì, però se permetti, tra Francia e Germania, il Portogallo credo sceglierebbe volentieri l'Italia eventualmente, cioè può andare nella parte di tabellone forse più semplice nella seconda può fase. Trovare il varco, diciamo può così. Trovare il varco, può trovare il varco, sempre se fa il suo dovere. Portogallo-Italia, ottavo di finale, già tutto fatto. No, scherzo, ovviamente, però la prima del se ci dai il risultato mettiamo anche 2 euro Sì, vinciamo noi, ovvio. Poi nei quarti vediamo che succede, però se Pardo già sa come finisce è un scenario possibile, perché Portogallo se vince il girone affronta la seconda del nostro girone, che occhio e croce potremmo essere noi, anche se poi la logica non c'è, tantomeno con una squadra come l'Italia che veramente può vincere il girone e può arrivare quarta, secondo me. Io sono comunque abbastanza ottimista. Tu sei ottimista, ti tieni l'ottimismo e quindi tu dici il varco lo trova il Portogallo, in quel varco si infila, potrebbe infilarsi l'Italia e noi portoghesi possiamo infilzarli. C'è chi scrive sarebbe meglio arrivare secondi, ma questi sono calcoli che lasciamo a Cruciani, che è appassionato di questa materia. La vigilia com'è, Dario Ricci? Ma qua oggi hanno parlato le punte, o presunte tali, perché poi gli score dell'anno, se non quello significativo, di Lorenzo Insigne, per quanto riguarda invece Immobile ed Eder, tutt'altro fanno pensare. Insomma, sì, punte di movimento, no? Nerozzi, ma sarebbe pure il caso che la buttassero dentro in queste tre partite fondamentali. Sappiamo bene che questo è l'ufficio facce, cioè più delle parole, in verità dimenticabili e trascurabili, contano i volti dei protagonisti, di chi sarà, aspetta, in campo lunedì. È chiaro, noi le facce per radio non possiamo farle vedere, apposta, le possiamo solo descrivere, le voci invece possiamo farle ascoltare. Eder, Insigne e Immobile. La voglia di iniziare è tanta, perché è da 18 maggio, no, che prepariamo questo momento. Quindi penso che la voglia da parte di tutto il gruppo di iniziare questa avventura è molto grande. Poi penso che noi attaccanti tutti, non solo noi, ma ognuno si impegna al massimo per dopo avere l'opportunità di giocare. Però alla fine quello che decide è il nostro allenatore. Sono sicuro che scenderà in campo dall'inizio o dopo, deve subentrare in partita, darà sempre e farà sempre il massimo del suo impegno. Ci abbiamo tutti una grande voglia di scendere in campo, non solo gli attaccanti ma tutta la squadra, perché stiamo lavorando tanto per fare un grande europeo, e sicuramente chi scenderà in campo darà il massimo per fare grandi risultati. C'è tanta voglia, e una competizione così importante e bella la stiamo preparando davvero nei minimi dettagli. Anche stamattina abbiamo fatto un piccolo video, però è come giusto che sia, mancano 3 giorni e credo che siamo pronti. Abbiamo fatto davvero tante cose a Coverciano e continueremo a farle qui. La squadra è pronta, è carica, chi giocherà non importa, l'importante è che il gruppo sia unito, e questa è la cosa più importante. È una competizione talmente piccola che è importante essere uniti, e ci sarà spazio per tutti, e dobbiamo dimostrare che ci teniamo a questa maglia e vogliamo fare bene. Vabbè, la fiera della banalità, Giovanni Caprano. Ma più interessante l'ufficio facce, ce le facciamo raccontare da esatto, chi lì, molto più interessante l'ufficio facce che ci possiamo far raccontare da Dario Ricci e Max Nerozzi. Ecco Max, parliamo proprio delle facce, le sei parole le abbiamo sentite, ma che volti hai visto? Per un piccolo assist, ho visto un Eder, precisa domanda, quasi anche un po' arrabbiato sulla valutazione del suo periodo interista, perché ha detto sì, l'infortunio, poi mi si sono scordati in panchina per un mese e mezzo. Sì, ha aggiunto anche, a proposito di parole non di facce, ho la fiducia della persona più importante e non devo dimostrare nulla a nessuno, la persona più importante sarebbe Antonio Conte. A me Eder è piaciuto, come era piaciuto l'altra sera a Thiago Motta. I non italiani, non so se è un complimento, sono anche quelli che davanti alle TV a noi ci mettono la faccia e anche delle parole non banali stavolta. A chi gioca lunedì sera, Max? Posso contestare oggi, anche la definizione di non italiani, Max, mi permetti? Lo so, Pelé ed Eder, secondo me. Pelé ed Eder, quindi sì. Zaza Immobile, l'esperimento io, è stato io test. Penso che, no, è vero che Zaza e Immobile stiano risalendo il ranking, però Conte difficilmente rinuncerà a Pelé, perché secondo lui è quello che fa girare la squadra, cioè che la fa salire, che fa risponde, è un giocatore più affidabile. Poi se guardiamo i tabellini nazionali, per me è quello che ha segnato più degli altri. E l'indizio che porta ad Eder, anche se sono d'accordo con voi che oggettivamente tra i cinque è quello più indietro, Pelé non è mai stato provato a oggi, vedremo gli allenamenti di questi giorni, con un altro attaccante. Sì. Mi sembra dura imbastire un'intesa in 3 giorni. Certo, su questo hai perfettamente ragione. Pier, dimmi. No, Pelé è la prima punta, della prima punta titolare di questa squadra, non credo che ci siano grandi dubbi, e dietro a lui ci sono Zaza, che credo, poi ovviamente aspetto conferme da voi, perché l'evoluzione cambia di giorno in giorno, davanti a Immobile, e poi c'è invece il ruolo più da seconda punta, dove chiaramente Insigne ha tantissimo talento, ma è meno adatto per quel tipo di ruolo, sarebbe più adatto per un modulo diverso. Ed Eder, nonostante tutto, come si sottolineava prima, ha la fiducia della persona più importante, quindi io credo che Pelé ed Eder sia nettamente la coppia favorita. Senti, contesti con me la definizione di non italiani? No, adesso Max Nerozzi è un amico, mille virgolette. Però io ormai sono abituato a, siamo abituati a parlare di giocatori eleggibili e sì, non certo, eleggibili. Ce ne sono circa un quarto tra tutti i convocati a questo europeo. No, oggi non mi ricordo chi pubblica la tabella. Sta facendo un complimento, stava parlando dal punto, è chiaro che sì, no, ma abbiamo capito tutti, ma infatti una, non è una polemica, ragazzi, non è una polemica. È una precisazione, perché è ovvio che perché se no poi no, ma sai cosa, poi arrivano i messaggi, ma Balotelli non è italiano. Ragazzi, quante volte abbiamo letto queste cose? Voglio dire, sì. È pieno di gente che scrive fogliate varie. Esiste un diritto, esiste una sensibilità, esiste un insieme di valori condivisi. Quindi uno può essere nato in Africa, può essere nato in Svezia, può essere nato a Pescasseroli o a Campobasso, uh-huh. È italiano, se per la legge italiana. Italiano se è eleggibile, è giusto che è funzionale, è giusto che venga chiamato in nazionale. Max, no, io dicevo soltanto, sono d'accordo con te, sottoscrivo, figurati. Parlavo di formazione non italiana nei rapporti con il mondo che c'è fuori. Pierre è stato nel ritiro del Brasile, dico il Brasile, ci sono stato qualche volta, ho avuto la fortuna, ragazzi, con il Brasile parlavi con Ronaldo, con Kakà, con Maicon, e qui facevi fatica a parlare con giocatori che a Maicon fanno fatica ad allacciare i laccetti, quindi non scherziamo, c'è veramente una, non so, lavora meglio con il Brasile che con l'Italia, quindi figurati. Ma anche detto che poi il Brasile è molto ripreso, anche qui ci sono situazioni, facciamo un po' di autoreferenzialità, ci sono situazioni storicamente molto diverse, perché il Brasile è sempre stato straordinario da questo punto di vista, conferenze stampa molto, un grande accesso. Tra l'altro una quantità di giornalisti brasiliani, quelli di Globo TV, sono di un centinaio, non so se hanno sempre le camicie verdi, non della Lega, ma di Globo TV, sì, appunto. Esatto. E quindi c'è proprio una grandissima abitudine a stare in diretta 24 su 24. Già l'Argentina, per esempio, storicamente era molto più chiusa. Molto più chiusa, uh-huh. Sì. E in qualche modo riflette anche le caratteristiche dei popoli. La Germania storicamente organizzatissima e tutto sommato con la Germania ho sempre lavorato bene, non so le esperienze di Nero o di Dario, ma insomma con la Germania si è sempre lavorato piuttosto bene, ma poi cambia anche a seconda di chi è il presidente della federazione in quel momento, di chi è l'allenatore, di chi è l'addetto stampa, cioè sono situazioni, però questo imprinting diverso sicuramente sono d'accordo con Max, giocatori che magari vengono da altri contesti, nel caso di Thiago e nel caso di Eder, ovviamente dello stesso contesto, quello brasiliano, sicuramente sono un pochino più aperti. Grazie Pierluigi, che aspetta, devo salutare Dario Riccio e Max Nerozzi. No, ovviamente. Io rimango, qualche altro minuto rimango. Tu rimani? Sì, okay. Benissimo. Sto per fare del cinema qui, Sto per fare del cinema, vero? Mi confermate? Altissimo livello, Maccio? Sì, si può fare del cinema? Fra un po'. Fantastico. Grazie Dario, ovviamente ci sentiamo tutti i giorni con te. Grazie a Max Nerozzi, inviato della stampa. Ci fermiamo per la borsa, torniamo subito dopo. Tutti convocati. Pioneer Investments, leader globale nella creazione di soluzioni di investimento. Vi presenta... Si ricomincia! Tutti convocati. Oggi ovviamente siamo alle distorsioni elettroniche alla Jimi Hendrix. Questo è l'inno di? Spagnolo. È l'inno spagnolo. Siccome la Spagna non va da nessuna parte in questa edizione dell'Europeo, è una squadra in ricostruzione, è una squadra che ha vinto moltissimo, è una squadra che si sta rinnovando, che però non è ancora riuscita a cambiare pelle rispetto ad un mondiale deludente. Credo sia difficile mettere in fila due cicli vincenti così ravvicinati, esatto. Anche se la Spagna resta di qualità superiore, non ho capito se gli spagnoli ci credono o no, te lo dico ufficialmente, poi chiederemo al professor Ricci se ci raggiunge. Adesso ci raggiunge, no, perché loro di solito sono sempre, hanno questo approccio molto aggressivo negli ultimi anni. Spagna che punta molto comunque su Morata, perché ha battezzato Morata come la stella dell'attacco, ha battezzato Morata come il giocatore cui affidare gran parte del proprio destino. Anche perché c'è un cambio generazionale, fuori il Nino Torres, certo. Il mondiale ha bocciato la scelta di prendersi dal Brasile Costa e pensare di far di lui il centravanti della Spagna. Morata viene da una stagione contraddittoria nella Juventus e io credo che parte dell'incertezza anche sul suo futuro venga da questo, cioè dal fatto di non essere mai stato inteso quest'anno come titolare pieno da Allegri, che preferiva un'altra copia, e quindi in un certo senso essere tentato anche di andare via. Posso dirti, ed essere malizioso, posso dirti non so quanto abbia inciso sullo scarso impiego di Morata anche la difficile situazione contrattuale, perché alla fine... No, io non credo... Perché alla fine, sai, fai giocare i tuoi, fai giocare anche quelli che sei sicuro di poter monetizzare. Io non credo ha più inciso su tutto questo la squalifica che il Real Madrid ha preso e nel 2017 sì, dovrà scontare, certo, a livello di mercato. Ha accelerato tutto, perché altrimenti sarebbe stato più semplice per la Juve, per il Real Madrid, gestire questa fase. Però siccome in tanti dicono che Morata è forse l'unico attaccante europeo di un certo livello capace di giocare sia come riferimento centrale che come esterno, ecco, allora Morata potrebbe essere la rivelazione di questo campionato, perché a me non piace andare a cercare quei nomi, quelli che in teoria non conosce nessuno. Ad esempio questo può essere, deve essere l'europeo di Pogba, ma perché Pogba trascina la Francia a vincere l'europeo e fa il salto di qualità. Se deve essere mister 100 milioni, allora deve essere già maturo e pronto per portare la Francia a vincere l'europeo. Sappardo, cosa ne pensa della Spagna? No, io di Morata penso che anche io ho sensazioni positive su Morata, nel senso che secondo me comunque ha chiuso la stagione in crescita. Non credo che abbia inciso tanto il discorso contrattuale, io penso che abbia inciso soprattutto la concorrenza di un attaccante come Mandžukić, che è un giocatore molto più complicato di Llorente come tipo di concorrenza. Mandžukić è un grande mestierante, lo dico col massimo del rispetto, cioè è un giocatore di esperienza, un giocatore ha fatto benissimo, perché nella prima parte della stagione, soprattutto nell'autunno del 2015, è stato importantissimo per la Juve di Allegri, qualche volta anche contro vento e contro l'opinione prevalente dei tifosi e della critica, però è stato spesso decisivo e preferito a Morata. Quindi secondo me è questo l'elemento. Morata è un giocatore capace di lampi clamorosi, ma anche di qualche amnesia. Non è ancora forse un giocatore al 100% pieno di carattere, però è un grande talento. Penso che farà un buon europeo. Con la battuta ti posso dire che sarà pure un po' riposato, quindi sicuramente ha meno minuti sulle gambe di altri giocatori, sicuramente non sarà sfolpato, al di là del fatto che un ragazzo così giovane può giocare pure 70 partite all'anno, ma penso che abbia un bel vento questo suo europeo. Vediamo. Senti Pierluigi, prima di salutarti, dici dove sei e cosa stai facendo, si può? No, ho Mediaset a registrare una cosa con il professor Maccio Capatonda e tutta la sua allegra band, un momento di grande cinema. Ecco, adesso però mi chiuso i tornelli, mi apre il tornello? Aperto il tornello? Una cosa di grande momento cinematografico. Sono pronto a... Va bene, ti salutiamo? Che dobbiamo fare? Salutiamo, sì. Ho anche Herbert Ballerina. Vuoi dire una cosa sul Napoli? Una cosa di... Io c'è Napoli, sei incognito, hai esclusive. Allora, c'è un passante, ma hai visto tutti, il Napoli è una grande squadra che ci darà tante soddisfazioni. Saluta De Luca, io ti saluto. È napoletano, bravo De Luca, bravo. Non è bravo, è napoletano e basta, è nato lì. Napoletano svizzero, però, come molte volte sottolineiamo. È di Campobasso, credo, no? È di Campobasso. Quello è il campo dove sempre si scende in campo. Battuta. Ciao Pierino. Ciao ragazzi. Ciao, un abbraccio. Ciao. Matteo Modena, poi Piero. Buongiorno Matteo. Matteo. Niente, al telefono di Pardo. Piero, buongiorno. Buongiorno. Dica. Squadra rivelazione saremo noi, l'Italia. Conte manderà in campo la squadra. Pronostici, squadra rivelazione e giocatori rivelazione di questo europeo, ciò che è quello che vi stiamo chiedendo io e Giovanni Capuano. Sto dicendo. Benissimo, io ricordo, perché il giocatore, parte del giocatore mio mestiere, Bernardeschi. Sì, se gli dovrà dare un'occasione, perché nella prima partita si metterà nei guai. E Bernardeschi sarà il nostro Paolo Rossi. sarà il Paolo Rossi del 2016. E il Sharawi no, invece? Il Sharawi lo amo tantissimo, sono un milanista, mi dispiace che non lo vedremo più con la maglia rossonera, ma gli manca qualcosa. Non ha i numeri che secondo me ha in tasca Bernardeschi. Beh, Bernardeschi pure piace moltissimo, però è giovanissimo. No, ma non ho discussioni sul fatto che sia stato convocato, è stata una grande idea, spero sia la rivelazione. Però la seconda parte di stagione di El Shaarawy a me dà grande fiducia. Poi è comunque un giocatore che i palcoscenici internazionali li conosce un po' di più. Hai visto mai che possa portare quella scintilla di magia anche nel gruppo Italia, Giovanni? Comunque in tanti avevano accusato Conte di aver fatto delle convocazioni un po' grigie, cioè hai lasciato a casa Pavoletti, hai lasciato a casa quei giocatori che potevi provare a portare per cogliere l'attimo, come in tanti hanno fatto in passato, Berzot con Rossi, Vicini con Schillaci. In realtà Conte l'attimo ha cercato di coglierlo, perché dentro i 23 ci sono ad esempio Bernardeschi e Insigne, che sono due giocatori forse non pienamente funzionali al suo gioco, ma che rappresentano col tipo di stagione che hanno fatto quella scintilla di fantasia. Come fa a lasciare a casa Insigne, che è stato, no, non si lascia a casa, però Conte è accusato di essere un integralista, cioè di portare, scegliere soltanto gente che sia perfettamente funzionale a quello che è il suo calcio, al modulo, al 3-5-2, a quello che vuole fare. In realtà non è così, ed è vero, Bernardeschi è una scommessa intrigante. Certo, lo è. Noi speriamo di non doverla usare, nel senso che vorrebbe dire che gli altri magari sono andati male. A me ricorda un predecessore in maglia viola, cioè Nicola Berti, ma ne parliamo dopo, perché adesso andiamo da Filippo Maria Ricci. Eccolo qui. Buon pomeriggio. Dove stai? Al Ile de Ré. Sotto la pioggia, ci faranno 15 gradi, siamo sull'Atlantico, non esattamente... Sì. Non esattamente alle Baleari, a Formentera. No, dice che piove tutta la settimana, va bene così. Filippo, ma adesso quando poi la... Prego. Dimmi pure. No, ma hai fatto venire in mente una cosa con questa pioggia, perché noi spesso queste grandi manifestazioni le affrontiamo anche parlando del tema climatico, cioè c'è chi giocherà nei gironi caldi di pomeriggio, poi alla lunga paga. È la prima volta che mi sembra non si discuta di questo. Beh, io mi è venuto in mente perché tu hai parlato della pioggia, dell'Atlantico, e questa volta non si parla dell'aspetto climatico come uno dei temi che può condizionare l'europeo. Beh, insomma, se questi vanno a giocare a Nizza, la seconda partita, ci sarà una differenza di quanti gradi? Una ventina. 15-20 gradi, sì. Ed è la stessa cosa che successe alla Spagna, che si spagliò clamorosamente in Brasile. Si sistemò a Curitiba, no, il posto più brutto del Brasile, 7 gradi, dopodiché presero un aereo e andarono a giocare la prima partita a San Salvador de Bahia, che ne faceva 35, e persero 5-1, probabilmente anche dalle altre ragioni. Tu dici che non hanno imparato la lezione. Ma non lo so, no, beh, la prima partita è a Toulouse magari non è così calda, non lo so, non sono così pratico, però magari non è... Però insomma, qui siamo in un bel autunno, Vabbè, dai, clima continentale, siamo in Francia, poi non è stato... Possiamo fare del meteo, ma non è stato un giugno particolarmente assolato nemmeno dalle nostre parti qui in Italia. No, senti Filippo, prima di lasciarti andare a ripararti dalla pioggia, io e Giovanni dicevamo non abbiamo, almeno io, non ho grandi sensazioni su questa Spagna in ricostruzione. Nemmeno io. È un po' strano, voglio dire, tu poi guardi la formazione e dici, però insomma non è una brutta formazione, perché una squadra comunque con una difesa con Ramos e Piqué, lo stesso Juanfran, Busquets, Iniesta, no? È una squadra Coque, no? Ci sono tanti giocatori validi, lo stesso Morata, però c'è qualcosa che manca, appunto, proprio si parla di sensazioni, di... Non riescono, per me non hanno trovato la nuova strada. La nuova generazione, certo. Stanno cominciando. Saul l'ha lasciata a casa. Voi prima vi sentivo parlare di non si può lasciare a casa Insigne o Bernardeschi, no? Giustissimo, qua hanno lasciato a casa Saul. Saul è stato uno dei giocatori migliori, no? Dell'Atletico, che è arrivato in finale di Champions e ha una giornata dal titolo in Liga. È difficile cambiare. E ci sono giocatori sinceramente che non si sa perché sono qua, come Pedro, no? Anche Thiago Alcantara nel Bayern non ha fatto granché, E la transizione è complicata, ma a cominciare dalla porta, probabilmente giocherà De Gea, però non è sicuro, cioè Casillas ha ancora delle chance di giocare, quindi vuol dire che è difficile poi, no, staccarsi da quello che è stato ma certo è difficile anche staccarsi da una certa forma di normale e onesta gratitudine. Lo abbiamo imparato ai mondiali dell'86, insomma la Spagna questa generazione ha vinto tantissimo ed è normale anche, insomma, rendere onore a quelli che hanno esatto, costruito questa grande Spagna. Perché sai, tu parlavi, no, l'82, quindi era un mondiale, questi hanno vinto mondiale, certo, due europei, per certo, cui insomma è difficile rinunciarci. È chiaro, quindi anche lo stesso, però è una questione di sensazioni, lo stesso Del Bosque lo vedo un po' come affaticato, no? Lui vuole andare via, dopo vuole ritirarsi dopo l'europeo, invece vogliono convincerlo a restare, è difficile, no, prevedere chi potrà venire al suo posto, e così, poi è chiaro, li vedi diciamo, vedi i nomi e dici, insomma, ci sono solo, se fai un confronto tra i nomi che ha la Spagna e quelli che ha l'Italia, no, teoricamente sulla carta sono molto superiori loro, però magari, no, in questo momento sono meno squadra, non si sa neanche bene il modo di giocare, no? Non è ancora del, certo, tutto chiaro. Certo. Intanto c'è il solito simpaticone che manda un WhatsApp dopo il pronostico di Genta per la Spagna semifinale sicura. Staremo a vedere. Ciao Filippo, ci sentiamo in corso d'opera. Ciao. Grazie Filippo Maria Ricci, ci fermiamo per il traffico, torniamo subito. Tutti convocati. Convocati. Siamo alla techno, ma non durissima per quanto riguarda l'inno tedesco. Giovanni Capuano qui con me, Riccardo Gentile, voce di Sky, ciao! Ciao, buongiorno a tutti! Ciao, allora, visto che è il tema della giornata, stiamo facendo ovviamente questo giro d'Europa all'alba dell'europeo, pronostico, squadra rivelazione, giocatore rivelazione, so che sono abbastanza banale, però questo è quello che chiedo anche ai nostri convocati. Ma la squadra rivelazione... Passatemela, io dico l'Italia, perché per tutti, insomma, è una squadra più debole delle altre e obiettivamente di alcune, non di tutte, è chiaro, però delle strafavorite, però ho l'impressione che sia la più squadra di tutte, perché è allenata da un allenatore che è abituato a lavorare con il club e che ha già dimostrato, secondo me, nel percorso delle qualificazioni di aver dato un'identità, un'anima a questi ragazzi, che hanno sicuramente qualcosa in meno rispetto a quelli di Germania, Spagna, Francia, probabilmente del Belgio, tecnicamente anche rispetto alla Croazia, però ho l'impressione che sappiano stare meglio in campo, quindi io mi gioco l'Italia. La tua grande favorita chi è? La Francia. La perché Francia è padrona di casa, perché è una squadra equilibrata, secondo me, a talento, ma anche capacità in mezzo al campo di farsi sentire, e perché credo senta molto questo europeo per tutta una serie di motivi che, insomma, sono facilmente immaginabili. E già, voglio dire, qualcosa di buono aveva fatto vedere al mondiale brasiliano, poi si arrese al Maracanã ai quarti di finale alla Germania perdendo soltanto 1-0, comunque fu una partita equilibrata. E tra le due, Francia e Germania, che secondo me, diciamo così, hanno qualcosa in più delle altre, dico Francia. Ma cos'ha di più della Germania, la Francia? Ma tanto per cominciare, perché la Germania è quella di due anni fa. E ripeto, non era la fine di un ciclo e non dà l'idea di essere oggi fine di un ciclo. È lontana dalla fine di un ciclo. No, è vero, è verissimo. Peraltro tanti giocatori tedeschi molto bravi, molto forti, protagonisti, sono ancora giovani, pur avendo vinto tutto, no? Tanti giocatori della Germania tra club e nazionale possono vantare una bacheca incredibile. Forse però proprio per questo ti dico, la Francia credo abbia più fame, più voglia di vincere rispetto a una Germania che... nel corso degli anni, dal processo di rinnovamento che ormai è datato 2004, ha un po' cambiato pelle rispetto a quello che è sempre stato detto e abbiamo sempre apprezzato, per carità, della nazionale tedesca. È sempre stata una nazionale che aveva forza fisica, capacità di corsa, quella mentalità che non ti lasciava niente, e molto spesso con delle squadre, penso, non so, alla Germania che va in finale nel 2002 in Giappone e Corea, non esaltanti ma con due o tre giocatori bravi, per il resto poca roba, riusciva comunque a ottenere risultati. Questa nazionale è ricchissima di talento, è ricchissima, certo, di qualità, certo. Però si piace tanto, a me piace chiamarla... È una squadra di grandi trequartisti, la caratteristica, Riccardo, di questa Germania sta nel fatto che è una squadra di centrocampisti di grande talento. Forse non c'è mai stata nella storia, no? Una squadra di grandi trequartisti in Germania. Hai ragione, esatto, è proprio cambiato qualcosa, ovviamente è un po' frutto del lavoro che è stato fatto nelle giovanili, un po' il fatto che molti giocatori tedeschi sono sin nati in Germania ma hanno origini diverse da quelle tedesche, Özil, Khedira, faccio due nomi ma ne potrei fare tantissimi, sì. C'è questo ragazzo dello Schalke, Leroy Sané, che è nato ad Essen ma che è figlio di Sané, che era un centravanti franco-senegalese che giocava in Bundesliga qualche anno fa ed è un talento meraviglioso, è stato convocato, magari non lo vedremo tanto perché non è un titolare, però se entra in corso di partita vi invito a dargli un'occhiata, perché è un ragazzo che per esempio Guardiola già corteggia, da quello che so, al Manchester City. E quindi vi dicevo, secondo me c'è stato proprio un cambio epocale per quello che riguarda la Germania, che è una squadra che si piace molto. A me in questo momento piace un po' chiamarla il Brasile d'Europa. Brasile d'Europa, bravissimo. Sì, no, ma è così. È il Brasile d'Europa, e al talento e alla tecnica brasiliana unisce anche una fisicità che i brasiliani non hanno. Fammi in 30 secondi i nomi di tre stelle possibili per questo europeo. Allora, sicuramente uno può essere questo che ti ho detto prima, cioè l'eroe Sané, sì. Anche se ovviamente le possibilità di vederlo tanto in campo non sono molte, però è un ragazzo al quale io credo molto, nel quale credo molto, è un 96, ha 20 anni ed è molto, molto bravo tecnicamente, fa parte proprio di questa nuova scuola del calcio tedesco. Sì. Ma insomma, pensare ad altri, mi auguro che un italiano possa avere una parte importante in questo europeo. Se devo pensare a qualcuno, penso a Insigne, anche se è partito senza la sicurezza del posto da titolare, certo. Anche se è partito per il rotto della coppia, perché poi all'inizio Conte pensava addirittura di non portarlo. Sarebbe però... stato un grave errore. No, ma sono d'accordo con te, Insigne, Bernardeschi e Sharawi, questa può essere la stella italiana. Riccardo, grazie, ci sentiamo presto. Devo chiudere, dobbiamo chiudere questa prima parte di Tutti Convocati. Sentiamo GR, torniamo dopo. Finisce qua, senza recupero, primo tempo. Gran spettacolo. Tutti Convocati. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Che dire, arrieccici. Tutti convocati. Io e Giovanni Capuano siamo qui in questo venerdì del villaggio europeo a giocare all'Euro europeo, all'Euro fantacalcio europeo. Chi sono le favorite, quali possono essere le stelle più brillanti, quali possono essere le rivelazioni di questo campionato d'Europa che è finalmente arrivato all'alba. Andrea, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, grazie intanto per la convocazione. A lei. Al lupo a dita incrociate per la nazionale italiana. E le mie domande erano due. Sì. La prima è un'impressione su Giroud, l'attaccante della Francia, se può essere temibile, insomma, se... e sul Belgio come super favorita. Io il Belgio non lo vedo come super favorita. Giroud è un giocatore che a me piace molto. Preferisco Griezmann, non so tu Giovanni. Preferisco Griezmann, il Belgio super favorito no, però io lo metto insieme al Portogallo nelle possibili sorprese. Magari anche un gradino sopra. Dove per sorpresa però si intende che deve arrivare fino in fondo. Sì. Perché che il Belgio sia una bella squadra, che il Portogallo sia una squadra forte, lo sappiamo tutti e oramai è così. Il problema è fare il salto che manca. Invece sull'Italia mi è sembrata molto lucida l'analisi che oggi sulla Gazzetta fa il presidente Tavecchio, che dice: noi partiamo per vincere, partiamo per vendere cara la pelle, siamo un gruppo, Conte ha lavorato benissimo, la testa solo sulla nazionale, va bene tutto, se usciamo ai quarti non facciamo drammi. Secondo me questa è la giusta prospettiva dell'Italia. Credo però che non sia un discorso che i tifosi italiani si vogliano ascoltare tanto facilmente, cioè il fatto che noi partiamo a questo europeo in seconda se non in terza fila, secondo me anche in terza fila, e questa è la nostra realtà oggi. Uscire ai quarti di finale sarebbe aver fatto un europeo più che discreto. Marco, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Dica. Allora, io per quanto mi riguarda la favorita credo sia assolutamente la Francia, mentre avrei piacere che fosse il Belgio a vincere questo europeo, perché sono anni che esprime un buon calcio e degli ottimi calciatori. Beh, una generazione grosso modo appena nata, è una generazione che ha grandissimo talento, è una generazione che probabilmente il calcio di quei posti non ha mai visto, è una generazione multietnica. E che continua a non venire, perché sono tutti giocatori che giocano fuori. Vabbè, ma dobbiamo abituarci. Giocatori che giocano fuori. Dobbiamo abbastanza abituarci a questo. No, ma visto non ci trovo niente di male. Il problema in Italia no, è che bravo, siccome ci sono tanti stranieri, bravo, allora la nazionale non è competitiva. Il Belgio è la dimostrazione che si può avere, esatto, una splendida nazionale, il miglior gruppo probabilmente nella storia del Belgio, quasi, e averli formati tu, ma alla fine sgrezzati qualcun altro. Sfondi la classica porta aperta, perché per me i giocatori, cioè, sono stufo di sentire questa favola dei giocatori italiani che non giocano nel campionato italiano vadano a giocare in Belgio da altre parti, per se qui non trovano spazio e secondo le leggi di mercato. Sentiamo un altro inno, stavolta quello francese. Forse non c'era neanche bisogno delle chitarre elettroniche per uno degli inni più belli della storia del mondo. Ciao Federico Casotti. Ciao, ciao a tutti. Che il calcio francese conosce molto bene e che racconta. Allora, molti danno favorita la Francia, anche nei nostri exit poll. Io sto chiedendo pronostici, sto chiedendo quale sarà la squadra rivelazione, quali potrebbero essere le stelle di questo europeo. Tu che stelle vedi nella nazionale francese? Non dirmi Pogba, dimmene degli altri. Allora ci sono secondo me delle basi incontrovertibili, cioè che la Francia solitamente quando si organizza un torneo lo va a vincere, e tendenzialmente quando lo va a vincere con il nuovo faro, che è un giocatore della Juventus. È stato Platini nell'84, è stato Zidane nel 98 e nel 2000, quindi dire Pogba è inevitabile. Però vedi Federico che sei d'accordo con me, cioè questo è l'europeo di Pogba. Prendere o lasciare. Beh, ma mi pare presto, lasciare no? Vuol dire mi che se presto. Invece Pogba dovesse uscire male da questo europeo, magari quell'etichetta di mister 100, 120, 150 milioni potremmo anche riconsiderarla, perché tu hai ragione, il paragone l'hai fatto, Platini, Zidane, la linea è quella, la linea dinastica. E diciamo che poi è anche vero che se davvero Pogba vuole diventare come Maradona, come Pelé, come ha detto qualche giorno fa, tutto passa inevitabilmente attraverso un'affermazione da protagonista con la sua nazionale, e quindi è evidente che l'europeo di casa è una buona base. Io però, dovendo dire un altro nome, dico senza dubbio Antoine Griezmann. Uh-huh. Io penso che arrivi, che penso che possa essere, magari a livello anche di numeri, perché è destinato probabilmente a fare più gol di Pogba e dunque ad avere anche una maggiore visibilità sotto questo aspetto. Io penso che Antoine Griezmann sia un altro giocatore realmente in rampa di lancio, dico anche magari per le classifiche di fine anno del Pallone d'Oro e tutto quanto, perché comunque anche in Champions League ha oggettivamente lasciato il segno più di Pogba, al di là di come è andata a finire a San Siro. Quindi io dico che Pogba e Griezmann sono le due colonne su cui la Francia, a mio parere, si poggia il suo ruolo di favorita, che poi è un ruolo, ma è anche un fardello, come continua a far intendere in qualche modo Deschamps nelle sue questo è normale. Questo è normale. Piuttosto mi viene da pensare, datemi Benzema per la nazionale italiana, lo chiamiamo Benzema, senza l'accento sulla A, un passaporto si trova, degli avi si trovano, però lasciare a casa un giocatore così è veramente indice di, da un lato di avere grande fiducia, dall'altro lato forse di sprecare una grande occasione, sappiamo quello che è successo. Coerenza. Certo Giovanni, di avere una certa coerenza, però non siamo qui a giocare per la gazzosa, siamo qui a giocare per un europeo e Benzema secondo me è comunque uno degli attaccanti più forti del mondo. Beh, va anche contestualizzato il tutto, la Francia non è l'Italia e la Francia ha avuto nel 2010 un episodio gravissimo, l'ammutinamento di Knysna in Sudafrica, che tuttora ha delle scorie pesanti nella valutazione e nel rapporto tra nazionale francese e opinione pubblica. Quindi il discorso di lasciare a casa Benzema è anche secondo me pesantemente influenzato dal ricordo di quanto successo 6 anni fa e dal desiderio di tenere il più possibile l'ambiente sereno e lontano da polemiche. In questo caso, visto che i francesi la ragion di Stato, la raison d'état l'hanno inventata, in questo caso evidentemente la ragion di Stato ha imposto un Benzema a casa piuttosto che un Benzema convocato magari contro il parere del gruppo. A maggior ragione, visto e considerato che comunque i francesi hanno in Giroud e in seconda linea in Gignac comunque degli attaccanti che tutto sommato sono all'altezza. Allora parliamo un attimo del Belgio, torniamo un attimo sul Belgio. Il Belgio gioca questo europeo per la prima volta nella sua storia con il peso sulle spalle di una delle nazioni favorite. Sì, è arrivato in finale nell'80, ma lì arrivò quasi per caso, perché fu l'Italia in quel caso a buttarla un po' via. In questo caso c'è la consapevolezza di avere una generazione di talenti difficilmente ripetibile in un paese comunque di pochi milioni di abitanti. E come dicevate giustamente voi prima, c'è un discorso di formazione che è andato al di là dei confini belgi, perché Hazard è stato formato in Francia, lo stesso di Vocorigi è stato formato in Francia, ma anche vari Carrasco, anche uno come Lukaku che è stato cresciuto nell'Anderlecht, è sposato nell'Anderlecht, ma a 18 anni era già in Inghilterra. E parlare di scuola belga è secondo me improprio, perché la scuola belga in realtà è una, non, come se non esistesse in qualche modo, no? È una, in realtà hanno preso il meglio del calcio tedesco, della formazione francese, della formazione inglese. Mettiamoci anche di quella italiana, perché Nainggolan alla fine il Piacenza lo prese non ancora ventenne e comunque è un giocatore tatticamente italiano di formazione. Quindi Federico, voglio chiedere a Giovanni Capuano se c'è una lezione da imparare per noi in questo Belgio. Io credo che la lezione da imparare in questo Belgio sia quello che c'è prima, cioè prima che arrivino ad avere 18 anni e abbiano quel percorso che ci sta raccontando Federico, perché loro in realtà prima hanno tutta una serie di investimenti, hanno una ragnatela di centri, hanno un rapporto strettissimo tra la federazione e i club, i settori giovanili, hanno un'idea di calcio che prende i migliori talenti sin da quando sono bambini e li forma pensando a quello che potrà essere poi il loro cammino all'interno delle nazionali. Poi hanno anche il coraggio di prendere, andare fuori senza farsi grandissimi problemi e completare la formazione, come ci stava raccontando Federico, prendendo il meglio dal posto dove vanno. Ad esempio, questo secondo me può essere l'europeo di Lukaku. Sì. Lukaku oggi è un giocatore che vale 30-40 milioni di euro. Quanto varrà fra un mese? Su quale mercato? Quanto varrà fra un mese? Anche qui è Lukaku è un giocatore potenzialmente straordinario e esplosivo, Federico, però deve dimostrarlo a questo livello, perché essere l'attaccante dell'Everton non è sufficiente. Sì, poi è uno che comunque al Chelsea si è scottato alla primavera occasione, probabilmente troppo bene lanciato troppo presto, ma è effettivamente un giocatore che probabilmente è destinato a diventare un affare tra club inglesi con i volumi e la disponibilità economica che avranno le squadre inglesi di tutti i livelli della Premier League in quest'estate. E tornando poi al discorso della formazione, c'è da aggiungere un particolare, che questo è dovuto anche alla fortuna del Belgio, di essere in quella posizione lì, di essere il Belgio, perché alla fine Hazard è andato a giocare a Lille semplicemente perché era a 40 km da casa. Alderweireld, Vertonghen, Vermeulen, la difesa belga è stata formata ad Amsterdam, all'Ajax, sì, cioè a due ore di treno da una qualsiasi città belga. Quindi c'è anche un aspetto, se vogliamo, logistico, però Federico, non è che è stato spostato, è sempre stato lì, però una generazione di talenti come questa che stiamo vedendo in Belgio non ha probabilmente alcun tipo di precedente. Ci sentiamo in corso d'opera anche con te. Ciao Federico Casotti. Ciao, ciao a ciao tutti. Grazie. Ciao. Ciao Federico. Alessandro, buongiorno. Buongiorno, salve. Volevo dare il mio pronostico. Innanzitutto grazie per la convocazione. A lei. Secondo me sarà una finale Inghilterra-Polonia. Inghilterra-Polonia. Esatto. Questa mi è nuova. Io leggo molte suggestioni sulla Croazia. Leggo molti pareri favorevoli sulla Croazia. Io la Croazia non la vedo fortissima, nonostante sia ricca di talento. Però Inghilterra-Polonia mancava anche a me a Capuano. C'è l'Ucraina che potrebbe fare un bel cammino, favorita anche da... Mm-hmm. Da questioni di seconda fase, di calendario, di tabellone. Però, sì. Però. C'è la Russia che è curiosa. La Russia entra nel biennio che porta il mondiale in casa. Mm. Ha giocatori selezionati tutti che giocano nel campionato russo. Qualcosa dovrà cominciare a far vedere. Il che non è esattamente un vantaggio, tanto che pure Don Fabio Capello si è arreso e ha raccontato molte volte come il bacino russo non sia poi questa... distesa sterminata di giocatori. Inghilterra, ma sì, parliamo dell'Inghilterra che è la mia favorita, dai, l'ho buttata lì. Non so perché ho detto Inghilterra, probabilmente per andare controcorrente, per fare figo, Giovanni, perché non io propendo per Francia e Germania, però rispetto al passato c'è qualche freschezza in più nell'Inghilterra. Sì, e c'è qualche elemento di novità in più, secondo me, quasi a cavalcare quelle stelle che hanno portato il Leicester a vincere il titolo. Tancredi Palmeri, buongiorno. Buongiorno, Radio 24, benvenuto a Parigi. Come sta? Tutto bene, tutto bene. Mi sembra quasi di essere già al decimo giorno di europeo, perché sai, quando vieni... Sei già stanco. No, veramente. Anche perché poi Parigi le distanze sono piuttosto importanti da coprire, per cui i posti sono... Vabbè, non è che vai a piedi, No, no, lo so. Ah. Ci sono messi anche gli scioperi. Devo dire che è su un equilibrio molto labile, devo dire, Parigi, da questo punto di vista organizzativo, diciamo, per ora. Però bello, bellissimo, finalmente si comincia. Senti, come vedi la squadra di Sua Maestà Britannica? Allora, non la vedo favorita, tuttavia, per quanto mi riguarda, io ho detto che può fare potenzialmente il miglior torneo, la miglior competizione degli ultimi 20 anni. E questo nonostante in questi ultimi 20 anni ci sia stata la generazione d'oro dei Lampard, sì, Gerrard, Beckham, sì, Owen, eccetera. Che non ha alzato nulla al cielo di alcun grande torneo. Sì, poverina, fu anche sfortunata perché uscì nel 2002 contro il Brasile, poi campione, per una magia di Ronaldinho. Nel 2004 contro il Portogallo, padrone di casa, ai rigori e in una delle partite più belle, più rocambolesche della storia del calcio. 2006 l'espulsione, non fu fortunata. Con la fortuna, secondo me, può arrivare in semifinale. Mm. Secondo me ci può arrivare, dalla cintola in su l'Inghilterra non deve temere nessuno, ma proprio nessuno al mondo. Cioè, secondo me, se la gioca anche con Germania, Francia, forse la Spagna è più completa. Il problema è la difesa, che è strano da dire per gli inglesi, però la difesa c'è un mismatch, visto che a te piace il basket, c'è un mismatch tra livello tecnico difensivo e dal centrocampo in su. ma mettiamoci anche il portiere che è di gran livello, che è incredibile, cioè sono quattro difensori che a malapena potrebbero essere forse titolari nelle prime cinque in Italia, non in Inghilterra, in Italia. C'è Gary Kyle che lo potrebbe essere la mintore Fanfani della situazione, è il rieccolo, perché ogni anno uno dice basta, non può partire titolare, e ogni anno parte titolare con il Chelsea. Per cui molto dell'Inghilterra passa attraverso not still Sir Roy Hodgson, perché se lui riesce a trovare la quadra che non ha mai trovato finora, bisogna essere sinceri e onesti, nelle grandi competizioni almeno, e allora almeno in semifinale ci può arrivare l'Inghilterra. Sì, Giovanni, tu sai perfettamente come l'Inghilterra in finale è il sogno di tutti gli allibratori, i bookmakers, i venditori di biglietti, i venditori di viaggi di tutto il mondo. Cioè l'Inghilterra in finale di un mondiale o di un europeo è l'affare più grande dal punto di vista sportivo, e non sto inventando, sto raccontando dei fatti reali. Sì, ma guardate che questo è un europeo disegnato per l'Inghilterra. Ah, sì? Tancredi lo sa, perché poi lui è uno di quelli che ama prendere i tabelloni, fare, disfare, provare a immaginare. Però noi è un'ora e mezza che diciamo che la Spagna non ci convince, che il Portogallo è sempre il Portogallo, che le più forti sono Francia, Germania, che ci incuriosisce il Belgio. Raccontiamo tutta questa cosa, se la mettiamo insieme, al di là della nostra speranza di essere noi la squadra rivelazione, ci accorgiamo che se tutte fanno il loro dovere, l'Inghilterra è nella parte dove non ci sono la Francia, dove non c'è la Germania, dove non c'è il Belgio. Insomma, questo vorrà pur dire qualcosa. Esatto. Sono quelle stelle di cui facevamo riferimento prima, che hanno accompagnato magari anche l'Ester di Ranieri. Devo dirti che sono in disaccordo con voi solo sulla Spagna, perché non ci posso, secondo me, dal punto di vista tecnico, come rosa è la più completa. Non posso credere che... Ti stai ricordando di un altro momento storico, di un'altra Spagna, di un'altra Spagna, di un'altra generazione di giocatori. Però sono campioni pazzeschi, cioè, ripeto, nessun'altra squadra, nemmeno la Germania, ha dei sostituti a livello dei titolari. L'unica cosa al massimo può essere la mancanza di fame, quello sì, però effettivamente la cosa che hanno positiva Spagna e Inghilterra è che sono tutti e due da quel lato di tabellone, quindi chi esorcizza i propri problemi va avanti. Il povero Belgio, che teoricamente avrebbe tutto per arrivare dritto fino alla finale, anche perché al di là del livello tecnico, è vero che gli si è importato Compact, pure Vermeulen in difesa, però Wilmots è uno molto italiano, cioè certo, è uno che certo. Non sta là a pensare dai facciamo i belli, no, lui ha detto io voglio vincere, non voglio essere bello. Ragazzi, abbiamo un minuto per invece per pronosticare una outsider, un underdog di questo europeo, cioè chi mi fa il nome della Croazia, l'ho già detto, c'è chi fa il nome dell'Islanda, c'è chi fa il nome dell'Ucraina o anche della Russia. Il vostro nome qual è? Allora, vado io? Io ti dico Galles. Galles ai quarti di finale. Ha una stella assoluta, ma ha una squadra che gioca discretamente, ha un ottimo spirito di spogliatoio e ha, cosa importantissima, che non ha la povera Croazia, che sarebbe teoricamente la più possibile sorpresa, ha un calendario molto propizio, mentre la Croazia è tutto molto difficile. Grazie Tancredi, sentiamo prestissimo. A voi ragazzi, a bientôt, Tancredi Palmieri. A tu, Ale. Ucraina è quarti di finale. Ucraina, se la prospettiva sono i quarti di finale, io ti dico l'Ucraina. Sentiamo anche Silvano prima di chiudere, buongiorno. Stavamo parlando di Islanda. Alla fine io la vedo abbastanza pericolosa, non lo so voi, però sì, l'Islanda è una signora squadra, sì. E i gironi l'hanno detto, e può essere l'underdog perfetto di questo europeo, a patto di trovare un giocatore trascinante, perché non esiste underdog senza la stella nascente. Tu per l'Ucraina chi vedi? No, l'Ucraina ha una solidità immensa, che poi è un po' nella loro caratteristica, e poi capita sempre in quella parte lì. No, questo è un europeo che secondo me sarà molto segnato da come è costruito questo tabellone della seconda fase. Perché noi parliamo tanto del Belgio. Il Belgio, non mi far parlare come Arrigo Sacchi, il Belgio finisce, rischia di finire a un quarto di finale con la Germania. E tu puoi anche essere la numero due del ranking FIFA, puoi essere una delle favorite, puoi essere fortissima, ma alla fine una delle due va a casa. E magari da qualche altra parte ti trovi il famoso stradone. Grazie Giovanni Capuano, che ritroviamo naturalmente domenica 17. Alle 17, tutti convocati weekend, tutti presenti. Cominciamo a vivere questo europeo. Grazie a Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia e Federico Bindi in redazione. Oggi non c'è, ma salutiamo anche lui, nessun problema. Ciao ragazzi, ci sentiamo domenica. Forza Azzurri e grazie a tutti.